Radio 24 Reportage. Giustizia, la ricetta dell'Europa all'Italia, di Raffaella Calandra. Tribunale di Milano, in nome del popolo italiano, visto l'articolo 531 Codice di Procedura Penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di Silvio Berlusconi in relazione al reato ascrittogli, perché lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione. Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. L'udienza è tolta. Scaduto, reato estinto. È successo al processo Mills per Silvio Berlusconi, succede ogni anno per 169.000 dibattimenti in Italia. Da Milano a Palermo, da Torino a Roma, a Napoli, ogni volta che la formula si ripete nelle aule dei tribunali, vanno al macero anni di indagini, richieste di risarcimento e domande di verità, insieme a 84 milioni di euro. Tanto costa al nostro paese il prezzo di una giustizia lenta e una prescrizione breve, causa di ripetuti richiami dalle istituzioni comunitarie e di condanne da Strasburgo. E proprio mettendo l'Europa come bussola, l'Italia ora riapre il difficile capitolo di riforma della giustizia, a cominciare proprio dalla prescrizione e da reati delicati come la corruzione, l'ha detto esplicitamente il primo presidente di Cassazione Ernesto Lupo. Operare per sintonizzarci con l'Europa è un'esigenza urgente e fondamentale anche in ambito giudiziario e non soltanto in ambito economico. Per molti reati, spesso la notizia è acquisita in un tempo sensibilmente posteriore, con la conseguenza che il procedimento penale nasce con un handicap temporale, senza che possa imputarsi ad inerzia delle indagini l'anticipato consumarsi del tempo di prescrizione. Ciò costituisce un'ulteriore anomalia negativa dell'ordinamento italiano, che rende di fatto arduo accertare responsabilità penali con sentenza definitiva di condanna prima della maturazione della prescrizione per molti reati anche di rilevante gravità sociale. Tra questi appunto anche la corruzione, piaga di vecchia data e di eterne polemiche, pronte a riaprirsi ora col ritorno in aula il 26 marzo del disegno di legge che dovrebbe portare le istituzioni nostrane a mettere in atto quelle indicazioni contenute in convenzioni comunitarie già da anni sottoscritte ma non ancora realizzate. Corruzione e prescrizione, su quest'ultimo fronte l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo, che si è anche interrogata sulla compatibilità della disciplina della prescrizione con gli standard internazionali di tutela dei diritti, anche perché da noi i ritardi troppe volte sono al quadrato, cioè lunghi sono anche i tempi per risarcire chi aveva subito le lentezze dei procedimenti, lo ricorda Paola Accardo, magistrato, consigliere italiano al Consiglio Europeo di Giustizia. Dal punto di vista dell'Europa, per quello che mi riguarda, il problema ovviamente rilevanza ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione che stabilisce il diritto di ogni persona di avere un giudizio in tempi ragionevoli e sotto questo profilo indubbiamente i tempi dell'Italia sono stati sempre abbastanza lunghi e abbiamo avuto un notevole contenzioso nei nostri confronti. Il problema però che abbiamo è che a sua volta non c'è però una sufficiente copertura finanziaria per pagare questi indennizzi concessi dai nostri giudici, in particolare dalle corti d'appello, per i ritardi nei procedimenti. Che succede allora? Che i ricorrenti delusi, perché devono ancora attendere troppo per ricevere questi pagamenti, si rivolgono a loro volta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha incominciato a esaminare questi ricorsi e mano a mano a concedere dei risarcimenti per questi ritardi che sarebbero proprio ritardi sul giudizio, sui ritardi, insomma. Ma anche se col cambio dell'esecutivo intorno al dibattito sulla giustizia, in Italia le nubi all'orizzonte si sono diradate, per dirle con la prima toga italiana, le posizioni degli schieramenti restano lontanissime, come queste dichiarazioni di Donatella Ferranti, PD, e Niccolò Ghedini, PDL. L'Europa, la Commissione Greco, tra i punti, le raccomandazioni che ha fatto all'Italia, c'è anche quello di rivedere proprio il regime della prescrizione, si potrebbe partire da questo. Ritengo personalmente che allungare i il termine della prescrizione sia un'idea barbara, frutto di una mentalità inquisitoria. I molti confidano che però, ora che il processo Mills si è chiuso con la sentenza di non luogo a procedere per l'ex premier, l'Italia possa comunque avviare quelle riforme che l'Europa ci chiede per allinearci con altri paesi dell'Unione, come la Gran Bretagna, ad esempio, dove la prescrizione proprio non esiste, come commentava con Radio 24 lo stesso ex coimputato di Berlusconi, David Mills. Non è il risultato migliore, ma è molto migliore delle alternative. In Inghilterra voi non avete l'istituto della prescrizione, che un reato appunto cada perché è passato troppo tempo. Sì, è vero, però l'Italia è un paese cattolico, o era, e quindi crede nel perdono. Non è più sostenibile l'attuale disciplina della prescrizione del reato, si rivela come un agente patogeno. Un agente patogeno, così il presidente della Corte d'Appello di Milano, Giovanni Canzio, aveva già definito la prescrizione, dimezzata dopo l'introduzione della cosiddetta legge Cirielli, la prima finita sul banco degli accusati. Ora che è archiviato il processo Mills, si torna a discutere di una riforma di questo istituto e mette in fila le riforme necessarie per combattere la corruzione il procuratore aggiunto di Milano, capo del Dipartimento per i Reati Economici, Francesco Greco, già membro del pool di Mani Pulite. L'Italia è inadempiente rispetto a tutte le convenzioni internazionali. Impongono alcune cose, la trasparenza dei flussi contabili, che significa riforma del falso in bilancio, la trasparenza dei flussi finanziari, che significa riforma del riciclaggio, una prescrizione lunga e che renda effettiva la possibilità di fare fino in fondo un processo. Serve la volontà di ratificare le convenzioni internazionali. Faccio un esempio per tutte: nel 1999 l'Italia ha sottoscritto la Convenzione europea sulla corruzione privata, e da allora che stiamo aspettando una legge su un fenomeno criminale che emerge in tutti i nostri processi, cioè il fatto che anche nel settore privato c'è un altissimo livello di corruzione. Congelare la prescrizione è l'indicazione già formulata anche dal vicepresidente del CSM Michele Vietti, soprattutto per reati come la corruzione. Il problema dei problemi è l'eccessiva durata dei processi. Noi abbiamo la maglia nera rispetto al resto del continente, noi non possiamo più permetterci il lusso di 3 gradi di giudizio per qualunque tipo di controversia. La Cassazione è inondata ogni anno da 50.000 ricorsi penali e da 30.000 ricorsi civili. Negli Stati Uniti ogni anno vengono introitati 80 ricorsi, dunque siamo a 80 rispetto ad 80.000. Un altro aspetto dei mali della giustizia italiana è quello dei tanti processi che muoiono per prescrizione. Noi siamo sotto osservazione da parte dell'Europa, in particolare per quanto riguarda i reati di corruzione, in cui i termini di prescrizione sono i più brevi del continente. Questo ovviamente determina un cortocircuito perverso. Negli ultimi 10 anni si sono mediamente prescritti in Italia 169.000 processi l'anno. E proprio la prescrizione, secondo l'OCSE, è il principale limite del sistema italiano di contrastare la corruzione internazionale. Lo scrive in un rapporto depositato il 20 gennaio 2012 ed è per questo che il primo presidente della Cassazione, Lupo, mette in fila le indicazioni dell'Europa tracciando le linee guida della giustizia italiana. L'OCSE ha raccomandato all'Italia di realizzare un adeguato prolungamento dei termini di prescrizione. Questa raccomandazione fa riferimento al tema della corruzione internazionale, ma sono ben evidenti le implicazioni che riguardano inevitabilmente tutte le fattispecie di reato, a partire da quelli di corruzione anche interna, su cui da più parti si esprimono allarmi e preoccupazioni. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.